Ma perché qui si parla delle assassinate forzate dalla tirannia paterna, non dalle evocate dallo Spirito Santo? Non ti devi scandalizzare, o discreto lettore, anzi, compatire immaginando i tormenti di quell'anima, se ben difficilmente ne può essere capace un intelletto separato dall'esperienza di così efficaci passioni. Terminato tutto ciò che occorre a imbavararla, ogni una delle monache si accinge per darle segno di pace con un bacio. Ciascuno di quei baci, uscito da quelle bocche, degenera in un acuto strale che vola a ferir modestamente le più recondite viscere del cor della religiosa novizia che, con tal nome appunto, per lo spaccio d'un intero anno viene chiamata. Finiscono i complimenti, ma non i dolori, dei quali piena quell'anima travagliata, col canto sulle labbra e le lacrime sul cuore, verso le monache, così dice: «E voi, sorelle, ora il mio Dio verace, godianci ormai in soporosa pace». Eppur, diversamente succede, perché trovano per elle la pace sbandita, l'amor di Dio finto, e invece di godimento, rodimento di rancor, tribolazioni, di mormorazioni e di inquietudini. Arrivata la tragedia a questo termine, si muta la scena prima, rappresentante il tempio, in un monastero sopra la quale, a pregiudizio e sterminio dell'infelice, come a personaggio principale, si raggira intorno la macchina tutta del funesto drammatico. Esercita in sue parti l'interesse, la fraude, la simulazione, l'ipocrisia, che passano fra loro dialoghi non intelligibili ad animi puri e innocenti. L'inganno, il tradimento, rappresentano al vivo l'ufficio di consigliere. La malignità e superbia, travestite e accompagnate dagli altri peccati, si fingono autorevoli, ma malinconicose e tatte ad ingannare con dolcezza ogni sentimento di chi si fida di loro apparenti larve. E tutti i mascherati recitan con eloquenza così diabolicamente artificiosa che può rapire gli animi di coloro che sono ignari di così simulato e finto vivere. Non hanno colpa le povere sfortunate, poiché gli iniqui fabbricano a forza questi luoghi dove, sotto abiti mentiti, nascondono sino i parti loro delle sfingi e chimere mostruose. Sola la virtù ne rimane esclusa con la fede e sincerità, perché quivi non riescono a proposito, e se tentano di comparire per rappresentare la loro parte, vengono scacciate e deluse come quelle che non usano gettare la pietra e nascondere il braccio, come eccellentemente usano di fare le prime nominate recitatrici. Onde, le disprezzate e malvedute, per essere il numero del meno, restano scopo alle maligne saette di quegli accorti dicitori che hanno sempre la mira di darne il segno dell'altrui reputazione e di attribuire ad altri i loro propri mancamenti. E gli assistenti, che sono diavolo, mondo e carne, applaudono di continuo a queste tali, onde solo i diabolici comici restano con onore e la povera virtù con le sue seguaci, cioè le innamorate di Cristo, rimane conculcate e non conosciute. Oh, delizio esecrabile degli uomini! I perfidi interlocutori che han deposta la vergogna, come solito dei tali personaggi, vanno con la lingua satirica, fingendo e inventando calunnie ed appunto all'uso dei mercenari comici che attendono ingordamente all'utile e s'affaticano solo intenti al guadagno, ai doni o presenti con tale interessata voracità che par che di loro cantasse il gentilissimo poeta toscano quando disse: «Et una lupa che di tutte brame sembrava carca nella sua magrezza, che molte genti fe già viver grame». Non mancano mai queste adulatrici finte istrione, ma sforzate e religiose, di impiegare tutto il talento, importare con grazia i loro interessi e, perché sono coperte di quegli abiti a forza, vivono alla secolaresca né se intendono punto ad osservare quello a chi l'anima non concorre. Se taluna d'animo nobile diversamente tratta, caluniano quel generoso cuore con titoli di superbo e artificioso nelle pretensioni di sovrastare all'altre. Non manca loro artificio per fingersi l'idea della libertà, eppure con ingordigia attendono la novella religiosa, non per carità o zelo d'accrescere di serve al Signore, ma perché il giorno festivo dell'ingresso è necessario che il di lei, ancorché avarissimo genitore, banchetti tutto il monastero, e taluna di queste tali, parlando sempre degli involontari per quel poco mangiare, tralascerebbe, per modo di dire, gli interessi di Dio. Attendono tal giornata con più desio che non fa un vero innamorato da buccarsi con l'adorata dama, la quale, arrivata, paiono tanti epuloni assistenti a quella mensa. Se a questi tragici avvenimenti fosse decente il ridicolo, tali riuscirebbero i contrasti fra l'avarizia del padre della nova monaca e la gola di taluna delle insaziabili arpie. Queste insantemente addimandano, quello ostinatamente nega. Ah, che questi sono accidenti non solo sproporzionati al riso, ma degni di lacrime di sangue. Finalmente, dopo moltiplicate contese, per la parte dell'uno si riduce la cosa alla minor spesa possibile e per quella dell'altro bisogna caricare almeno le mense vili e meccaniche di qualche sorta di cibo. Al loco, che viene chiamato con nome di refettorio in qualche monastero, sarebbe più proporzionato il nome di spelonca da ladri. Quivi, dato il segno della campanella due volti, introdotta la novizia che più morta che viva e più portata dalle ministre che dai propri piedi vi giunge, per onorarla, dopo l'aver la badessa benedetta la mensa, viene comandata ad assidersi per questa prima volta presso di essa, ma imbrogliata fra gli involti di quelle alle nove e noiose vesti, con la corona in testa, si può di lei dire ciò che ad altro proposito cantò il gran Tasso: cibo non prende già, che di suo mali solo si pasce. E sol di pianto a sete. Quivi una monaca legge una regola in alta voce. Essendo l'ordinario ogni giorno di sentirsi nell'ora destinata al mangiare una lettura, talvolta e per il più che annoia, perché della morte, dell'inferno, di vermini e piaghe si sente a trattare. Due cellerarie compariscono con le vivande e timbandigioni, molto diverse da quelle che superbamente fumano sulle mense delle nozze della costei sorella rimasta a trionfar fra le delizie di sposalizio mondano. Ivi la coppia ha votato tutto il suo corno e sino i fumi vagliano tesori, ma quivi la penuria dispensa avaramente il vitto non per aderire alla delizia, ma per satisfare la necessità. Ivi Bacco e Venere, esercitando loro antiche simpatia, gareggiano a cui più si deva la preminenza. Ma la dea d'amore, ben sublimata, viene al primo seggio. Quivi altrettanto non avviene, non permettendo la severa ed indegna parzialità dei genitori, fratelli e parenti. Eppure i poco lauti conviti goduti dalle monache, quando ammettono qualcuna, paiono lor sontuosi e magnifici, essendo per ordinario il loro pranzo picciolissima porzione di carne, che comprata in credenza è della peggiore, oltre che si cuoce la sera e si magna la mattina. Né queste sono favole, ma ben veraci storie, e non sia ingegno che di soverchio speculativo. Non presti intiera fede ai miei veraci detti, perché m'è noto trovarsi molto andar dicendo che le monache godono un perfetto buon tempo, ossia che sono sempre invitate al pranzo e alla cena dal suono di una campanella, senza essere tormentate da pensiero di provvedere alla casa. Oh, degni mentitori, a quali sia saciata la fame da un sol suono di squilla, non è già lor dinegato il passersi degli stesso modo nelle proprie case. Anzi, se anche essi volessero vivere nella stessa maniera o con la stessa parsimonia, avanzerebbero più denari da scialacquare nell'enormità di vizi. Purtroppo è necessario che ogni monaca provveda a se stessa e abbia quelle medeme cure che aggravano padri e madri di famiglia. I vestiti si stracciano e fa di mestiere rinnovarli secondo il bisogno, non vessendo niuna tanto perfetta in santità che conservi il proprio abito sino alla fine della vita, se brevemente non la termina, senza il dover sovvenire ad altre mille necessità che di continuo occorrono e spendere annualmente nell'obbedienza. Oltre che, essendo impossibile sostenersi in vita con la prebenda, per ricca che sia, data dal monastero, è forza soccorrere il corpo di cibi spendendo la metà del suo in viaggi. E colei che non ha qualche entrata particolare non vive che fra stenti e miserie. Ben il prova la fanciulla quando, desta dal letargo cagionatole dalle infide promesse e speranze con le quali l'allegata è obbligata ai parenti, si accorge di non essere provveduta che di sola casa di poco vino e pane. Eppur la bocca della verità disse: non in solo pane vivit homo. Infinitissime minacce mi occorrerebbero sopra di ciò, a maggior opportunità le riservo. Ne mancan fra tanti gravi, anzi ridicole contese fra le disperate, che per mio nortedio anche tralascio. Ma se io dicessi che tutte fossero così spropositate, sarei forse tacciata di maledica lingua. E sì, ti giuro, lettore, che se ben ve n'è di prudenti, poche se ne può escludere. Sei necessitato a credere questa indifesa verità, mentre il numero delle forzate, tanto superiore alle volontarie, t'assicura che siano molte quelle che fanno confusione. Questi sono i preludi, anzi i principi dei disgusti della nuova velata, perché sente sovente rimproverarsi da qualche indiscreta il maltrattamento intorno alla prima cena, di gran lunga inferiore a quello di qualche altra, tutto che però la rassembri più lauta di quella di Cleopatra. Non mai mancano posizioni, in qual si sia delle suddette ad altre azioni, essendo il monastero un teatro pieno di diversi cervelli, anzi un grandissimo ospitale di pazzi, ripieno di gente tali, non de altri che dalla tirannia degli uomini, savendo infine la sfortunata giovane d'essere imprigionata nell'inferno dei viventi, e di calcare una scena tragica con rappresentatrici maligne che sotto cortigianesca adulazione cuoprono un vivere a lor modo, alle quali benissimo s'adatta quello che scrisse uno ad uno cortigiano. Omai sei cortigiano, che è la seconda specie di ribaldi. Così la misera non si ha a qual parte volgersi, scorgendo cielo ed elementi congiurati ai suoi danni, e conoscendo che in simil stanza risiedono le pene infernali. Può ben, insieme con quel vivacissimo ingegno, cantar piangendo le condizioni del loco in cui è condannata, senza aver già mai errato. Quivi, sospiri e pianti e t'altri guai risuonano per l'aria senza stelle, che al cominciar io già ne lacrimai. Diverse lingue, orribili favelle, parole di dolore, accenti di ira, voci alte, fioche e suon di man con elle. Il fine del primo libro dell'Inferno monacale. Libro secondo. Inganno è uno dei più orridi mostri che concorrono ad infettare la quiete e felicità dei miseri mortali, cagionando loro gli infortuni sotto falso pretesto e finta apparenza di bene servire, a portar mali tanto più tormentosi quanto meno aspettati. Bene il provarono quegli infelici ebrei ai quali, nel condurli seco, Nabucodonosor commisse che al partire non arrecassero con esso loro altro che gli strumenti musicali, organi, timpani, flauti, eccetera, e ciò per persuader loro ingannevolmente che in Babilonia erano per godere fra gli agi e che altro che conviti e suoni e canti non erano per essere i loro esercizi e vita. Ma miseramente restaro delusi e aggravati da durissimo giogo di servitù. Anzi, sovente motteggiati e derisi servivano di scherzo, come a se rise il testo, a chi li aveva ingannati. Qua illic interrogaverunt, qui captivus duxerunt nos verba cancionum, cantate nobis de canticis sion. Rispondevano i miserabili: quomodo cantabimus canticum domini in terra aliena. Lo stesso avviene alle infelici monache, quando ci sono lasciate condur nella carcere d'un chiostro infernale per loro, dalle fallaci promesse e dagli astuti inganni dei tiranni parenti, non dalle voci dello Spirito Santo. Allora che la speranza è inaridita, s'avveggono esser prese alla rete. Onde, con falsità di pretesti, deluse e derise, son fatte perpetue servitrici di mille obbligazioni. Gli arnesi, o i passatempi e gusti proposti loro nell'ingresso dalla vecchia e dai malvagi padri, restano, come quelli del popolo eletto, per sempre pendenti dai muri. In salicibus, in medio eius, dicevan essi, suspendimus organa nostra super flumina Babilonis. Illic sedimus et flevimus cum recordemur sion. Li stesso dicono le sfortunate, poiché, in raccordandosi il lasciato mondo, né vedendosi spirar, né pur un'aura di salutifera speranza, piangono di continuo. Nell'udirsi commettere che suonino, cioè che stian liete in servir Dio, come tenute ad abnegar la propria volontà per ben amare il loro sposo, rispondono: «Quomodo cantabimus canticum domini in terra aliena. Come potiam noi lodare il sommo e onnipotente motore mentre ci ritroviamo in terra altrui? Questa non è sua casa, se è abitata da donne imprigionate con violenza. È impossibile che noi esprimiamo canto che ben risuoni e riesca grato mentre piangiamo la servitù in che ci ritroviamo e gemiamo della perduta libertà». Il cor loro, che si considera tradito, non può consentire ad allegrezze e così, fra sue inquietudini, ritrova modo d'offendere, non di placare il suo Dio. L'età tenera e natural loro inclinazione facilmente lascia che le si pieghino al bene, ma perché sono a forza rinchiuse, volentieri s'appigliano al male, e per essere formate di questa massa comune di carne non sono meno tormentate di San Paolo, che diceva «Datus est mihi stimulus carnis». Ma perché nell'antecedente libro non stimai bene il dilattarmi tanto che perfezionassi il racconto della parzial maniera che usano i padri fra le figliole destinate agli abbracciamenti di sposo terreno o a sponsali di Cristo, sentasi ora con che differenza d'affetto e di operazioni siano da loro trattate. Alla mondana non è lusso, diletto o delizia negata anticipatamente allo sposalizio. Ogni giorno ella si copre da abiti variamente nuovi, le mascherate, i giochi di carte, le commedie e ogni altro piacere le sono di continuo preparati. Insomma, sovrabbonda di tutto ciò che può possedere nel suo stato qual ci siasi. Ma la novizia spirituale, sino a che con tal titolo si va disponendo per sostentare la ponderosa carica della professione, è ricca d'ogni mancanza. Sia pur di sangue serenissimo ed illustrissimo, nulla di rispetto le viene portato, anzi è impiegata nelle maggiori fatiche, le più immonde schifezze fuggite dalle più vili serve nelle case private, ad essa sono riservate per l'esercizio. L'abbassamento di capo, anco verso cui non conviene, l'assistenza e prontezza nell'obbedienza e l'assiduità nel coro continua, se da queste tali non sono puntualmente osservate, si sentono con rimproveri cruciare con non dissimili voci da quelle che, come esse, furono sposate a Cristo con violenza. Sei novizia? A te s'appartengono i disagi. Tu, come ultima entrata in monastero, devi supplir per l'altre, che così abbiamo fatto ancora noi ai nostri tempi. Non è decente che tu pretenda di voler stare al paragone con le professe sacrate. Oh, scandalo esecrabile, quando con l'esempio dovrebbero essere loro sprone per eccitarle al corso della religiosa carriera, servono piuttosto loro di freno, scoprendo il proprio modo di vivere non religioso nell'opere. Oh Dio, se queste tali sapessero quanto è meglio l'insegnar con gli esempi di vita santa che con rimproveri inopportuni mutarebbero modo di costumi e di precetti. Se non da altri si può imparare da Seneca, che scrivendo al suo Lucilio diceva «Longum iter per preceptum, breve efficax per exemplar». La novella religiosa, però, pura e semplice, non comprende che questi rimbrotti siano a lei con parzialità fuori di proposito e di tempo, ma crede che il tutto sia indirizzato a buon fine, a ciò che ella sa sue faccia al ben operare, dove contratti di ingenuità, proferendo illa apertamente il suo senso tutto puro, viene interpretato dalle scaltre vecchie della corte infernale con sentimenti diversi. Ah, che per corrispondere a doppiezza di chi qual gano tradisce, sarebbe a proposito un Giuda, che seppur quegli tradicarlo, questi assassinò Cristo. Ma ogni male nasce dalla cecità del padre, che privo d'ogni vero lume di ragione, purché imprigioni la figlia, non ricerca con quella diligenza che dovrebbe a cui la consegna in governo, sì che taluno la dà in mano di soggetto discolo, che dovendole di ragione servir di maestra nel viver cattolico e pio, le serve di norma per tenere una vita poco religiosa. Invece di salteri e libri spirituali, non mai escono da quelle mani libri amorosi di cavalleria, con altre simili vane e oscene letture, con le falsità e gli inganni che da questi derivano. Non tralascian questi diavoli incarnati di fomentar la parente a coprirsi d'abiti lascivi, perché, avendole poste nell'inferno, non vogliono che le manchi i tentatori. Le promettono il suo aiuto nel male, con esserle precipitosa scorta per sommergerle in un mare di negligenze religiose, contrattenerle nei parlatori con discorsi profani, invece di lasciarli andare in coro ed invece di esercitar l'ufficio di buon cristiano, con esserle freno a correre le vie del senso, con persuaderla all'astinenza e purità di costumi. Le è un acutissimo sprone, sebbene il nostro genio è sempre proclino al male, più è inclinato a seguire il proprio gusto e recalcitrare lo spirito. Non di meno, la schiettezza di animo della Govenita e l'innocente suo talento, appreso dall'educazione, va pur schermendosi con l'armi del proprio onore e ritirandosi dall'esecuzione dei vani precetti. Ma che non basta questa onorata inclinazione. Bisogna finalmente che lei ceda alle ragioni adotte da chi, con l'esperienza alla mano, le giura il viver così essere delizia di paradiso. E come ciò fosse verità autentica, la prova con esempi delle presenti religiose, la maggior parte delle quali in molti monasteri così vive, e l'asserisce essere azion da pazza, non seguire il maggior numero, suggerendole esser cosa divina il trattare di scorrer con ognuno. Insomma, tal predicator falso predica alla novella monaca nello stesso modo che facevan coloro appresso Salomone. Venite, fruamur bonis che sunt et tutamur creatura, tamquam in juventute celerius vino prezioso et unguentis nosi impleamus, et ne pretereat nostri flos temporis. Oh, che raccordi diabolici, che però non ponno penetrare in cor di donna virtuosa et onorata, se in questa tale resta seminata così trista zizzania, non pullula e si disperde, perché è arido quel terreno, per così esosa semenza. Colei che è tentata da tante può ben cadere in qualche leggerezza, ma non perfettamente errare. Si dà qualche poco in preda alla vanità, ma non inciampa nelle trappole nelle quali, quando cadesse, sola cagionne sarebbero stati i suoi genitori, prima e poi i propri parenti. E se la prudenza non reggesse questa tale, si farebbe legge di quello che sente dirsi da questi esploratori della falsa legge. La parte fragile del senso la persuaderebbe a non stare in forze ed eseguire i documenti del vano congiunto. La concupiscibile si compiacerebbe di ciò che gusta alla carne e così, impensatamente, quasi si può dir senza colpa della fanciulla, se l'aiuto divino non le sovrastasse, quell'animo comincerebbe a ruminare i discorsi amorosi e a farsi lecito quello che nella vera casa di Dio doveva essere aborrito, facendo scherno ai suoi falli, con quel detto, perché l'errar con molti è minor fallo. Se per grazia, però, sovrannaturale, questa si serve di quel detto di Cristo, secundum opera eorum nolite facere, cent'altre cadono negli abissi degli errori, e quei detti, suggeriti ed invendati dal principe delle tenebre, paiono loro precetti da seguirsi. E così, imitando elle ed accettando i consigli di questi ministri del diavolo, vanno poi operando secondo l'acutezza del proprio ingegno, e fanno che si verifichino le parole lamentevoli di chi non può mentire quando disse «Populus meus in domo mea fecit scelera eorum». Il misero Baldassarre, solo per aver profanato il tempio e bevuto nei vasi che adoperava il sacerdote, meritò di vedere una mano che scrivendo nel muro l'avvisasse dell'imminente sua morte per rendergliela più tormentosa. Or, a questi scelleratissimi mostri che non solo profanano la casa di Dio, ma nel condannare i corpi alla prigion di un monastero, commettono con l'eccidio dell'anima e propria ed altri anche il deicidio, Sì, come anche agli inventori di così tiranna crudeltà, al sicuro e riservato maggior castigo di quello dato al re, poiché il loro fallo eccede di gran lunga quel di lui. Ah, che io non ho ingegno sì scaltro, intelletto sì sagace, che vaglia a spiegare in tutto tante intrecciate malizie di queste serpi che sotto spoglie di religiose cuoprono il veleno, hanno parole d'amore, effetti d'odio, apparenza di dolcezza o benignità, ma lacci orditi, inganni tesi, portano umile il volto, ma superbo il cuore. E chi potrà descrivere queste finte religiose? E se i loro pensieri sono imperscrutabili fuorché a Dio, abominatore di così fieri mostri generati dagli uomini, i quali non hanno albergo più cari dei monasteri, dove trovano più largo campo da esercitare le loro doppiezze. Queste sono chiamate da Isidoro anfessibeni, specie di serpi ch'ha un raspo in ambo le estremità, e da ragione sono cosiddette poiché appunto come se avessero due menti hanno due intenzioni, con una fingano, con l'altra ingannano. Sì, come furono ingannate esse, sì, vanno appunto a guisa di serpente, aggirando intorno alla semplice giovanetta ignara di loro falsità e fingendo d'amarla, vorrebbero poterla avvelenare col respiro. Ma infine loro avviene che Redentor et Dominus malitiam cor sum super caput sum sono mostri non dissimili dai genitori che portano il cuore lontanissimo dal volto o sono simili alle sirene che col canto insidiano gli incauti naviganti.